un giubbotto di pelle ed è già un buon motivo per vivere. Tra le rocce della montagna e tra la secca